24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta allegramente col consenso generale, la frittata è fatta tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto. Praticamente la frittata è fatta. Paesa. E qua vedo un sacco di persone che si sono intossicate dei salamelecchi, degli inchini talmente profondi che a molti di loro gli si vede il culo a furia di abbassarsi. E non è un bel vedere, cari amici. Senatore D'Anna, la prego di usare un linguaggio più appropriato, se possibile. Uso un termine anatomico, Presidente. Sì, ma ci sono vari modi per indicare la stessa parte anatomica. L'ha usato il Papa, credo che sia consono. Semplicemente come se non fosse niente, la frittata è fatta. E soprattutto il concetto che lei vuole scrivere. Concetto? Prego, continui. Ha usato il Papa? Lei come lo chiama? Non so, noi facciamo una discussione semantica. Prosegua il suo intervento. Bene. Prego. No, perché c'è anche una forma idiomatica, faccia da culo, no? Voglio dire. Scusi, senatore, pregherei di proseguire il suo intervento. Forme. Ci sono varie forme di rispettare che sono tutta l'aula. Chiedo scusa. Ascolto. Praticamente la chiedo scusa, poi ha finito dicendo chiedo scusa. Vabbè, uno degli interventi che rimarrà epocali nella discussione sulla legge elettorale, quella del senatore D'Anna. D'Anna. Tra concorrenti, ballerine e mostri, auguri da consigli per gli acquisti. Disquisire o meno sulle facce da culo o quelli che si inchinano troppo che gli si vede il culo. Termine che ha usato il Papa, dice D'Anna, e quindi anche in Parlamento può essere sdoganato. Oggi i giornali titolano più o meno tutti così: sta per nascere dal patto del Nazareno il partito del Nazareno, cioè proprio Forza Italia e Renzi, Berlusconi e Renzi che governano insieme. Ovviamente gli interessati smentiscono, in retroscena no, il patto è solo per il Quirinale e la legge elettorale, e poi ognuno per la sua strada, Ma staremo a vedere. Intanto è stato approvato l'emendamento Esposito, l'espositum, che praticamente permette di tagliare 37.000 emendamenti alla legge elettorale, che a questo punto settimana prossima potrebbe essere approvata, la settimana decisiva, la 91, potrebbe essere quella davvero decisiva. Renzi ieri ha twittato così, passo dopo passo, nonostante le polemiche, passetto decisivo per l'approvazione della legge elettorale. Vabbè, dai che ci siamo, ci siamo alle 6.30 minuti, questa è 24 mattino e saluto Lorenzo Nespoli in redazione insieme all'alpino Peter Bescapè, regia che apre la Claire, tirazzi la Claire, come dicono qui al nord. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, intanto voglio salutare Alessandro Giglioli e il suo piovono rane. Buongiorno. Buongiorno Lino Milan, buongiorno. Come va? Ti voglio presentare un graditissimo ritorno, ogni tanto lo svegliamo, il contadino Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno, ma il contadino a quest'ora è già sveglio. Che appunto. Il contadino sono. Ah sì, lo svegliamo nel senso che... Qui ci sono, capisci, le mucche, i cavalli che dicono oh, dateci da mangiare. Ma che si raccoglie di sti a febbraio, a gennaio niente di si raccoglie. Di sti tempi non si raccoglie niente, la cacca degli animali per mettere la pasta. Per preparare il raccolto della prima. primavera, della primavera. Capito, Giglioli? Piccoli. È una metafora politica. È una metafora politica. Di Pietro, cioè, mi sa che è già entrato, come dire, a discutere di quello che sta succedendo. Piedi uniti, della politica in Italia. Allora, Di Pietro, da vecchio esperto della politica, sta nascendo il partito. Non mi dica che è già iniziato, nel senso che lì sì, gli accordi ci sono, ma al governo non sono insieme. Nascerà la nuova maggioranza, il partito del Nazareno? Beh, che siano insieme e siano separati, gli effetti sono sempre quelli. A me non mi frega se me la coltellata me la danno due d'accordo fra di loro, o uno da una parte e uno dall'altra. Come dice Danna, sempre nel coso l'ho preso. Ah, sempre. Ma a proposito, ce lo dica, tanto non ci ascolta nessuno. Ma lei di facce da culo ne ha incontrate tante in politica? Purtroppo sì, ma guardandoli negli occhi. appunto, se tanto mi dà tanto, se sono facce da culo, uno li guarda negli occhi. Ma la più faccia da culo, tanto ormai è sdoganato. Chi è? Oh, bella. Adesso quella proprio. No, sono i cosiddetti preti spretati, quelli che ciagnene e fottene, come si dice, quelli che ti dicono sì e poi fanno una cosa esattamente opposta. Quindi uno di questi, per esempio, è proprio l'attuale, sono diversi esponenti dell'attuale governo, il quale vendono agli italiani, a cominciare dal Presidente del Consiglio, il quale vende agli italiani una realtà che non esiste e lo chiama in un modo diverso da quello che fa. In questo governo ci sono facce da culo, questo si può. No, ce n'è qualcuno che non lo è. Qualcuno non lo è, capito, Giglioli? Qualcuno non lo è. Non facciamo percentuali, dai, che la mattina la gente non vuole svegliarsi con pessimo umore. Per Di Pietro, hai sentito, Giglioli? La coltellata, se arriva da davanti o da dietro, se arriva, vuol dire che. Ma ci sarà davvero. Ma io credo di no, addirittura il partito del Nazareno. Cioè no, non conviene a nessuno, qualsiasi. Stagista che lavora nel marketing insegna che due brand sono più vendibili che un brand solo, anche se il prodotto è uguale, giusto? E quindi non c'è nessun bisogno di fare un unico partito. Poi comunque la storia dell'unico partito fa parte anche un po' dell'enfatizzazione giornalistica, ci sta, insomma, il problema in termini concreti, pratici, è semplicemente che è un'unica maggioranza fino adesso. Teoricamente, apparentemente, Berlusconi stava fuori dalla maggioranza, poi si è avvicinato gradualmente con un'opposizione sempre più omeopatica fino al patto del Nazareno, e adesso quello che è successo nei giorni scorsi con l'Italia, con quello che sta per succedere col Quirinale, quello che vedremo nei prossimi mesi è con quasi assoluta certezza di fatto una nuova maggioranza, cioè una maggioranza che comprende quasi tutto il PD, tranne quei 40-50, quelli che sono, che non si sentono rappresentati, e quasi tutta Forza Italia, più ovviamente i centristi. Il problema qual è, secondo me, lo dico anche un po' da giornalista se posso, che questa maggioranza non è trasparente, cioè in teoria noi abbiamo un partito all'opposizione che non è all'opposizione e un partito in maggioranza di cui una parte è all'opposizione. Allora, questo per l'igiene della democrazia e della comunicazione non è molto sano. Non va bene. Il cittadino ha diritto a sapere chi sta col governo e chi sta con l'opposizione in modo chiaro. Ma in teoria i numeri sono quelli. Poi se su alcune leggi trovano degli accordi trasversali. Non so, Di Pietro, qua è politichese. Voglio dire, in democrazia, quando c'è una situazione di questo genere, si doveva andare a votare tre governi fa. Ecco perché io, quando tutti hanno applaudito a Napolitano, io ho applaudito quando se n'è andato, non quando c'è stava. Eccoli. Cioè lei ha applaudito quando se n'è andato Napolitano? Sì, perché almeno spero che vada, come diceva, al tribunale, al Quirinale, un arbitro vero. C'è sto riflesso, c'è sempre sto riflesso, spero che vada al tribunale. Cioè appena vede, per tutto quello che finisce in ale è tribunale per Di Pietro. Finisce meno male che va al Quirinale ultimamente. Cioè spero che vada al Quirinale chi? Qualcuno che ci porti a votare, questo è. Qualcuno che rispetta la Costituzione, dove è previsto che in democrazia si usa che sono i cittadini a scegliersi chi deve mandare in Parlamento. Qui hanno mischiato cane e gatti semplicemente, ma poi è inutile che ci diamo una ragione nobile, diciamolo veramente. Perché questi si inventano tutto questo? Perché con questa legge elettorale sono tutti graziati del Signore che si trovano in Parlamento e sanno che non ci torneranno più. e quindi amore alla Madonna, e io voto pure l'anima del diavolo, ma da qui per 5 anni me la faccio. Non mi schiodo da qui. Vabbè, però vorrei capire di Pietro, aspetta Giglioli, poi arrivo. Vorrei capire di Pietro qual è la figura secondo lei che porta che ci porterebbe a rispettare la Costituzione, quindi andare a votare, cioè quindi un politico, un tecnico? Per definizione, oggi, come è combinato in Parlamento, dovrebbe essere un non parlamentare. Perché un non parlamentare. Il Parlamento è già definito. Vabbè, che ne so, però di che tipo? In Parlamento poi queste eccellenze non ce ne vedo manc'uno. Fuori dal Parlamento ce ne stanno a decine, sì. Ma a decine, a cominciare da Rodotà, Zagrebelsky. Anche Giuliano Amato, anche Prodi non sono parlamentari. Però. A Prodi stai tranquillo che non ce lo faranno. Quindi non c'è e Amato? Problema. Amato l'hanno appena fatto il giudice della Corte Costituzionale. Se permette la sua storia personale, io personalmente non lo matterei dopo che ho visto quel che ha fatto, sì. E cioè... ogni volta che succedeva qualcosa girava dall'altra parte e quindi non vedevo quel che succedeva, sì. Delle due l'una, o è strabico o chiedeva gli occhi. Io una persona che va in Quirinale e è già dimostrato che diciamo così, è inclina al compromesso o appoggiare una parte politica non ce lo metterebbe. Arbitro è. Capito Giglioli? Qua che volevi dire? Sì, appunto, poi un po' Di Pietro si è risposto da solo, la di rimettere non è stare dentro o fuori al Parlamento, perché dentro il Parlamento c'è, cioè, che so, Finocchiaro, poi dal Parlamento c'è Amato, non è che sia una di rimettere in sé, cioè non è un elemento che ci fa dire che uno è bravo o non è bravo. Anch'io sono Amato. Amato è molto molto quirinabile, come si dice adesso, con questo termine. Questo neologismo libero titola oggi, così ci tocca l'amaro Giuliano. Perché questo pattone fra Renzi e Berlusconi, con Berlusconi che ha fatto il super soccorso che ha consentito a Renzi di mandare in porto l'Italicum, da una cambiale piuttosto una cambialona a Berlusconi medesimo, quindi adesso nessuno, non è neanche ipotizzabile un Presidente della Repubblica che non abbia il pieno placet di Berlusconi, tant'è che il nome di Mattarella, che era un nome secondo me decente, fatto pur essendo io lontano politicamente da Mattarella, fatto nelle settimane scorse, è crollato, perché come sappiamo Mattarella non è gradito al 100% da Berlusconi, ancora per vecchie questioni legate a quando era ministro, eccetera, negli anni 90, e quindi si parla solo di persone molto gradite a Berlusconi, una delle quali è appunto Amato. Poi si parla di Finocchiaro, che mi fa un po' sorridere, perché un anno e mezzo fa, due anni fa, Renzi l'aveva definita il carrello umano, no? Sì, perché andava all'IKEA a fare la spesa. Adesso invece aveva detto che non era assolutamente candidato. Adesso non ha detto niente. Non ha detto niente, ma è uno dei nomi più di punta, perché sarebbe quello che otterrebbe l'effetto di... Intanto immaginati solo la narrazione mediatica sui telegiornali del presidente donna, immaginati la retorica. Oggi il Fatto Quotidiano, però, oggi il Fatto Quotidiano scrive una pagina dicendo che Finocchiaro che è quirinabile, ma il 3 febbraio il marito va a processo per truffa. Ecco qua, abbiamo qui Di Pietro. Però Di Pietro, ma se il marito va a processo per truffa, per questo non dovrebbe essere candidabile al Quirinale, cioè l'associazione. Poi magari succede che deve essere chiamata pure la moglie a testimoniare, e fa come ha fatto Napolitano, che è andato, l'abbiamo già avuto un presidente che testimonia a questo punto. Non c'è andato, non fa il furbo. Ma come non c'è andato? sono andati i giudici da lui. Già questo mi fa girare, sto fatto che c'è stato uno più bello dell'altro. E vabbè, ma ho capito, ma ha testimoniato, dai, ha fatto l'udienza. Dopo tutto quello che è successo, alla fine, voglio dire, ci mancherebbe pure che i carabinieri andassero a prendere tra poco. No, per carità, era un test. Vabbè, non ci voleva andare. Sentite qui Renzi, Renzi ieri era a Davos. Ha parlato pure ieri e in inglese, e quindi dobbiamo anche pronti con la paletta dei voti, perché dobbiamo vedere se è migliorato rispetto alla famosa performance di qualche mese fa. Ieri in inglese ha tirato fuori però anche il carpe diem latino. And I think the role of politician must be that seize the moment. I use an expression who come from Roma, ancient Roma. Carpe diem. This is exactly the moment in which we can choose the future after a lot of difficulties. Vabbè, vabbè, dai, dai, Giglioli. Che ti devo dire? Dai, su. Una volta Renzi usa l'inglese, diciamo globish, per capirci, l'inglese maccheronico, perché in questo modo fa... perché lo fa così, ma voglio dire, non si vergogna a usarlo, anzi, lo esibisce, perché, perché è l'inglese che parla il 90% degli italiani che dicono di sapere l'inglese, quindi c'è un'identificazione in lui, un'identificazione popolare. È un po' come fa Di Pietro con l'italiano, dai, diciamo. Eccolo lì, lo sapevo, che, lo sapevo che arrivavamo a questo. Lo sa benissimo, ma parla così perché così tutti si identificano, faceva quando era leader politico. C'è un'identificazione. Perché parla il montenerese, no? Parla in realtà Di Pietro. Io ormai ho creato uno slang di italiano, quindi capisci, c'ha zecca ormai. Esatto, cioè, che c'ha zecca con l'inglese? Ormai è una storia. Che c'ha zecca con l'inglese? Io con l'inglese proprio c'ha zecco niente. No, ma Renzi. Renzi. Che ci azzecco con quel che sta facendo gli italiani. Vabbè. Guarda che Di Pietro c'ha ragione, chi se ne frega di come Renzi parla l'inglese, e poi di come usa questo suo modo di parlare, ripeto, secondo me anche per conquistare consenso, per sembrare uno di noi. Vabbè, ma è migliorato secondo te rispetto... Perché questa volta mi pare che gli abbiano scritto il testo, poi la pronuncia è quella che è. Sì, insomma, la pronuncia, insomma. Se uno nasce in Italia non lo mandano all'asilo inglese... E non va a fare una scuola da ragazzino, l'inglese da grande lo pronuncia più o meno così, tranne poche eccezioni. Non concentriamoci sull'inglese di Renzi, parliamo del contenuto delle cose che dici in italiano. Dai. Ho capito, cosa deve fare? Il finocchiaro presidente, amato presidente. Su questo, il contenuto lascia da parte, io considero Renzi un abile venditore, non ho ancora capito cosa vende, ma il contenuto... Che cosa ha fatto fino a mo di quel che serve agli italiani, voglio dire all'italiano che ha bisogno in questo momento di risollevarsi economicamente, socialmente, gli 80 euro che tu gli fai, che tu gli stai lì a discutere dalla sera alla mattina della riforma del Senato, piuttosto gli togli pure la possibilità di scegliersi di mandare in Parlamento. Io non so che bene ha fatto all'italiano. Gli 80 euro non vanno bene, no? Sì, gli 80 euro, te ne do 80, te ne frego 150. Ma no, perché te ne frego 150? Perché obiettivamente, cioè, da altre parti le hai ripresi? Fa domandare a chi è che paga le tasse, a chi le paga, ecco, perché poi fa pure le leggi per non farle pagare le tasse. Però io devo dire una cosa. Sul piano tecnico, da ex PM... Io mi auguro che la Procura di Roma si decida ad aprire aprire un reato ministeriale, perché in un condominio uno che falsifica un verbale, questo si chiama falso, e si procede anche in un condominio. Mi spieghi per quale ragione? Sì. Questo dopo aver fatto un decreto legislativo in cui c'è scritta una cosa, hanno approvato una cosa e scrivono dopo che l'hanno fatto un altro, inserendoci un comma del 3%, questo non si chiama quella, al 3%. Certo, ma non l'ha scritto lui, ma Di Pietro, lui ha detto, si chiama concorso penale morale in reato commesso pure dalla sua dipendente. Abbiamo Giglioli, abbiamo un reato già appioppato. Non so se è un reato, io non sono mica laureato in legge. Certo, domandate al costituzionalista Paci, che ci ha fatto già una sintesi sul piano accademico, l'hanno già scritto queste cose. Io lo dico in Di Pietresimo, allora l'hanno già fatto. A me interessa più il piano politico, diciamo, ci sta dicendo che è già pronto, c'è che è già pronta una denuncia No, l'hanno già depositata l'altro ieri. Ma questa Giglioli, tu questa la sapevi? C'è una denuncia nei confronti del Premier? L'ha fatto l'Adusbef. Scusami, io non mi entusiasmo per stare con qualità, è lecito sicuramente. Però lascia stare la denuncia. Quel che a me interessa è perché in proporzione uno più ha, meno deve pagare di tasse. Questo è il problema. Questo è il piano politico, e su questo Di Pietro mi trova perfettamente d'accordo. Abbiamo fatto questa joint venture, Giglioli Di Pietro. Devo andare a sentire il traffico e poi la segreteria telefonica. Siamo con Antonio Di Pietro, Alessandro Giglioli. Rientriamo tra un attimo. 24 mattino. Silenzio, per favore, la domanda che sto per farvi esige la massima attenzione. È più difficile raddrizzare questo paese o una banana? Secondo me una banana. Perché Cofferati non si dimette anche da parlamentare europeo che è stato eletto con i voti del PD? Perché prende i soldi naturalmente, da quello non si dimette. Milan, ma dimmi la verità, ma Giletti lo conosci o no? Ma meglio di lui come Presidente della Repubblica. È onesto, è sincero, si incazza quando vede le cose storte. Ma come lo volete meglio di questo? E facciamo sto Giletti Presidente della Repubblica. Alessandro Milan, sono stato dal dottore questa mattina perché ti ascolto tutte le mattine. Mi ha detto, Paolo, tranquillo, non è infettivo. Sono Gotor, figlio di Ptah, nipote di Ksur, e al mio segnale liberate la legge elettorale. E le cicale, cicale, cicale, cicale, e la formica, in Italia non cicale mica. Uè Salvini, sveglia, siamo in Italia! Vabbè, Giglioli, quello sono Gotor, figlio di... Mi ricordava una... Ma quello è notevole. Ma è notevole, mi ricordava una gag di Aldo Giovanni Giacomo, te la ricordi? Sono Ptah, figlio di... Sì, bellissimo. E beh, quindi gli è venuto da... Beh, Gotor, personaggio che... Vabbè, dai, Gotor. Basta, non diciamo... Però ecco, da questo punto di vista, politicamente, Di Pietro, qualcuno dice, finalmente c'è uno, almeno, che ha i voti per decidere. C'è uno che dice, i dissidenti del mio partito... Sì, vabbè, o due. I dissidenti del mio partito sono irrilevanti. Cioè, io se voglio fare delle cose adesso, sarà perché c'ho Berlusconi, che... però le faccio. Almeno ho i numeri. Spesso si dice, in Italia non si fa mai niente, non si hanno i numeri per combinare nulla. Una volta che c'è uno che c'ha i numeri per fare le cose, almeno le fa. Vede, se avesse i numeri dei cittadini che l'hanno eletto per stare lì, allora può dire questo. Sì. Ma lui non ha i numeri dei parlamentari che i cittadini hanno eletto. Lui si va a prendere i numeri di parlamentari eletti dai cittadini per stare all'opposizione. Insomma, il problema è sempre quello, non è stato votato dagli italiani. La prima cosa. La seconda cosa, per definizione, in democrazia, chi non la pensa come te va rispettato, non è irrilevante. Quindi questa mancanza di rispetto verso chi la pensa come te, io per esempio ho sentito dire che nel Partito Democratico uno può fare, può essere minoranza, ma una volta che la maggioranza ha deciso, devono andare a votare tutti la stessa persona che hanno deciso. No, scusami. Se no sono dei parassiti. Scusami. Io posso capire che in una squadra, in maggioranza, una volta che c'è una maggioranza, poi devono essere andati tutto squadra. Ma se in Costituzione hanno previsto che in alcuni casi si vota a scrutinio segreto invece che palese, in quel caso la Costituzione ha previsto che ti do la possibilità di farlo in segretezza, proprio perché è una cosa che deve fare come la tua coscienza, non come ti ordina qualcuno. Quindi è la Costituzione che ti dice che in quel momento devi rispettare solo la tua coscienza e non l'ordine di partito. Ecco. E allora, ma lo dice la Costituzione, non lo dico io, lo dice il buon senso contadino, non lo dico io. Benedetto il Signore. Giglioli, sempre benedetto il Signore c'è sempre, perché Giglioli qui... credente io. No, vabbè. La questione però, insomma, è che dovrebbe fare allora Renzi? Dovrebbe andare a votare per prendere i voti, avere la legittimazione. Renzi ha i numeri per farlo, hai detto, scusami, farà perché... Cioè, non è che farà, in questo momento quello che si è certificato, il dato politico degli ultimi giorni, è che Renzi ha i numeri non... Sarà perché sta con Berlusconi. Sì. I numeri in questo momento ha i numeri per governare solo perché sta con Berlusconi. Ma voglio dire, cioè, a parte che. Però questo però è un gioco politico, ti vorrei chiedere. Ma d'accordo, no? ma su questo si può, si può discutere, ma non è un reato. Cioè, voglio fare delle riforme e le voglio fare con chi ci sta. Chiunque. Ma va benissimo. Allora, non è un reato, è un dato politico. Questo sì, e in questo io mi sento da ragione a Di Pietro. È sicuramente un tradimento della volontà degli elettori, quelli che hanno votato PD, o come si chiamava? L'alleanza con SEL, si chiamava il bene comune. L'hanno votato su un programma che comprendeva cose. Sono lì per quello, i parlamentari del PD eletti, sono lì sulla base di una programma e di una campagna elettorale che era lo smacchiamo, e lo smacchiamo è diventato invece l'alleato di governo, che prevede, che non prevedeva la maggior parte delle cose che ha fatto Renzi in termini di politiche economiche. Non a caso Berlusconi ha detto sono le nostre politiche economiche quelle di Renzi, perché sta facendo le politiche economiche che non erano nella, né nella tradizione né nel programma del centro-sinistra e che sono quelle invece del centro-destra. Sì, ma poi ognuno fa i propri interessi. Sapete che oggi su Repubblica pare che Berlusconi abbia detto ai suoi così: a me questa legge elettorale mi fa schifo, mi fa schifo, ma se non faccio così mi ritrovo un presidente ostile al Quirinale, e allora sapete che c'è, me ne vado all'estero e vi mando tante cartoline. Questo è Di Pietro, questo ha detto Berlusconi, faccia, come pare che abbia detto Berlusconi, cioè mi fa schifo questa cosa, però per contare e per forse avere una agibilità politica, si chiama così adesso, voto questo. Vabbè, ma si può dire che gli 8 milioni di elettori del PD sono stati un filino presi per quella cosa che non si può nominare, che tu hai citato all'inizio di trasmissione, del senatore Danna, perché hanno votato una del cosa, senatore Danna, perché hanno votato una cosa e se ne sono ritrovate un'altra, vabbè. Ma sono quelli cristiani che hanno mandato lì le persone a rotamare e adesso si ritrovano Franceschini ministro, Pinocchiaro Amato candidati per il Colle, alla faccia della rotamazione. Che c'è Di Pietro? No, volevo dire, anche gli elettori del centrodestra, dal loro punto di vista, possono sentirsi traditi. Perché alcuni, avevano infatti, tutta sì. Ecco perché io, sotto questo aspetto, ripeto, a me pare che quel che sta accadendo in questo momento sia proprio una decadenza morale della nostra situazione politica, al di là di quel che puoi commettere, può commettere come reato o non reato, la questione è veramente politica. E la cosa che mi amareggia è che comunque gli italiani non lo potranno raddrizzare sta cosa, anche se vogliono, perché le regole che si stanno costruendo sono regole che non permetteranno loro di scegliere chi la prossima volta di mandare in Parlamento, e quindi ancora una volta avremo soltanto dei sudditi che, come dice Danna, che stanno piegati al servizio di qualcuno. Ecco perché io temo che prima o poi, purtroppo, prima o poi adesso siamo a chi non vuole andare più a votare, o chi vota solo il voto di protesta, e qualche vetrina sfasciata e macchina incendiata ci arriva. Mannaggia, no, speriamo di no. Intanto è bellissima questa cosa che un ascoltatore mi scrive in questo momento: oh, siete imbarazzanti, una radio vergognosa, radio PD Renzi 24, ma ci sono qui Di Pietro e Giglioli che da mezz'ora stanno criticando Renzi. E vabbè, sono... mattino presto, non è che tutti possono essere svegliati, connessi. Vabbè. Va bene, vi ringrazio, vi devo salutare, Antonio Di Pietro, Alessandro Giglioli, grazie per essere stati con noi, il giornale radio, poi c'è la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti in punto, cari ascoltatori, e noi parleremo tra un'ora di che cosa? Beh, di questo momento politico in cui si approva forse la legge elettorale settimana prossima. Renzi ieri ha twittato che è stato fatto un passo avanti decisivo, e probabilmente settimana prossima, la 91esima settimana decisiva, sarà decisivissima. Perché probabilmente si voterà, si approverà questa legge elettorale, l'Italicum. Avremo ospite Esposito, senatore, colui che ha fatto l'emendamento Espositum, già così ribattezzato, senatore del PD. Avremo ospite anche Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia, molto critico. Vorremmo chiedere soprattutto, come chiedono i giornali, se stia nascendo una nuova maggioranza, dal patto del Nazareno al partito del Nazareno. I diretti interessati smentiscono, ma è questa la chiave di lettura politica del giorno. Il patto Renzi-Berlusconi sta dando vita a una nuova maggioranza di governo? Chi lo sa? Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo giovedì 22 gennaio c'è chi si concentra sulla giornata questo sì, decisiva davvero in Europa, perché Mario Draghi, presidente della BCE, dovrebbe annunciare il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE, un'attesa molto molto fremente. Pronto il maxi piano BCE sul quantitative easing, questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina. Per il Corriere della Sera, titoli di Stato, la scelta di Draghi, il piano è di acquisti per 50 miliardi al mese, mentre anche Avvenire apre su questo la svolta di Draghi per far ripartire l'Unione Europea. E poi ovviamente la legge elettorale, Repubblica, Italicum, sconfitti dissidenti PD, sia al Senato coi voti di Berlusconi, Messaggero, Colle, prove di maggioranza. Il Fatto Quotidiano, ecco, è molto deciso su questo. Pronto il governo Renzi-Berlusconi dopo la presa del Quirinale. La Stampa tiene il patto Renzi-Berlusconi, mentre il Giornale titola così: la scissione dei parassiti. I parassiti sarebbero quelli del PD, così definiti dal senatore Esposito ieri in un'intervista a Repubblica, quelli del PD della minoranza. Libero, ci tocca l'amaro Giuliano. Ricordate l'amaro Giuliano, ma in questo caso è Giuliano Amato al Colle. Questa è la previsione di Libero. Mentre il Manifesto titola con la foto di Bersani: ditta dura. Vedremo tra poco. Io voglio partire da una vicenda di cronaca che secondo me è stata messa nelle pagine interne, ha avuto poco risalto, ma basta leggere i titoli dei giornali per capire insomma che la notizia di quelle, secondo me, da prima pagina. È un paese in cui si possono leggere questi titoli sui giornali. Caserta, l'ospedale gestito dai casalesi. Questo è il titolo del Messaggero. Oppure Repubblica la mette così: Caserta, l'ospedale era in mano ai casalesi, cioè alla mafia. E che dobbiamo dire? Pagina 15 del Messaggero, Leandro Del Gaudio. Appalti truccati, le mani di Gomorra sulla sanità, 24 arresti. Li vedi lì attorno allo stesso tavolo mentre sbracciano e si agitano, mentre prendono appunti e annuiscono. Sono quelli del circolo magico. Così si chiamavano i signori degli appalti nell'ultimo scandalo su rapporti tra clan, politica e imprese. Filmati, intercettati dentro e fuori i palazzi del potere, colpiti da accuse di pentiti, da ricostruzione di atti amministrativi. Sembra un capitolo di Mafia Capitale, ma è l'ospedale Sant'Anna e Sebastiano di Caserta. Sotto inchiesta finiscono funzionari, tecnici regionali, imprenditori, 10 in cella, 14 ai domiciliari, legami con la camorra, associazione a delinquere di tipo mafioso, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, abuso d'ufficio, reati spesso aggravati dal fine mafioso. Nel mirino ci sono gare per 3 milioni di euro. Proviamo a ragionare con le carte del GIP, scrive il Messaggero. La camorra fa campagna elettorale per i propri politici, che nominano i dirigenti pubblici, che ricambiano il favore con gli appalti. Riflettori in particolare sull'ex direttore generale Luigi Annunziata, che peraltro è morto un anno fa, ma anche sul suo successore Francesco Bottino, che sarebbero stati sponsorizzati da Clemente Mastella e Nicola Cosentino, politici che non risultano indagati. Anzi, è Mastella a ricordare la contraddizione in cui si viene oggi a trovare. Non c'entravo con la nomina di Annunziata all'epoca, non c'entro oggi con gli appalti di Caserta. Per avere minacciato Annunziata, mia moglie è sotto processo, mentre ora io rispondo per avere sponsorizzato lo stesso Annunziata. Insomma, un paradosso. Però la vicenda e dell'inchiesta è una vicenda, secondo me, paradossale, incredibile, di come notizie del genere finiscono poi all'interno dei giornali quando dovrebbe avere un grande risalto. Un ospedale gestito dai casalesi. Questo è quello che si evince almeno dalle accuse della procura a Caserta. Rimaniamo in campagna, perché a proposito di condanne c'è un qualche problemuccio per il sindaco di Salerno, De Luca, Vincenzo De Luca, rieletto sindaco per la quarta volta nel 2011 col 74% dei voti, dunque da 20 anni al potere a Salerno, condannato però, e lui vuol fare le primarie condannato per abuso d'ufficio, un anno di carcere, interdizione dei pubblici uffici per 12 mesi. E lui vuol fare le primarie. E come la mettiamo? Condannata a un anno, scrive il Corriere della Sera, interdizione dei pubblici uffici per gli abusi che avrebbe commesso nelle opere di realizzazione del termovalorizzatore. Stavolta le conseguenze della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno rischiano di guardare non solo l'amministrazione comunale, ma anche le complicatissime primarie del PD per la scelta del candidato da schierare le prossime regionali. La questione è semplice perché, per quanto la pena sia sospesa, dovrebbe scattare nei confronti di De Luca la legge Severino e quindi la sospensione dall'incarico di sindaco. Lui aveva detto 2 giorni fa: intendo rispettare la legge, affermazione che però letta nel suo complesso vuol dire che rispettare la legge significa anche percorrere tutte le strade che la legge prevede. E lui le percorrerà sicuramente, dunque non si dimette, non ha intenzione di mollare, come ha detto ieri in una nota. Da oggi, scrive lui, comincia una grande battaglia di civiltà. Insomma, si prospetta una ripetizione della vicenda del sindaco di Napoli, De Magistris. Si ricordate, dichiarato decaduto per la legge Severino, poi lui ha fatto ricorso e il TAR l'ha riammesso a sindaco. Pasticcio in vista. Ma attenzione, per quel che riguarda la questione e le questioni penali, il Corriere della Sera oggi ha una notizia in esclusiva che riguarda Fabrizio Corona. Ve lo ricordate Fabrizio Corona in carcere? Giuseppe Guastella racconta, pagina 17, con richiamo in prima pagina: Fabrizio Corona ha depositato una perizia difensiva firmata da uno psichiatra e dai suoi legali. In carcere rischio la psicosi e per questo chiederà oggi di poter scontare il residuo di pena ai domiciliari o in una comunità. Scrive nella sua perizia il dottor Riccardo Pettorossi che l'ex re dei paparazzi ha una personalità narcisistica e borderline. Il primo disturbo lo fa sentire superiore alle altre persone dalle quali ha bisogno di essere ammirato, per le quali non ha quasi alcuna sensibilità. E il secondo, il carattere borderline, gli fa provare emozioni eccessive e variabili, facendolo così galleggiare in una situazione che in carcere gli causerebbe disturbi d'ansia con attacchi di panico e depressione, acuiti e amplificati dopo 2 anni in cella dove non può gratificare se stesso con gli eccessi, la grandiosità e l'assenza di vincoli e controlli. Insomma, per questo Fabrizio Corona, comunque la pensiate, lui che deve ancora scontare 6 anni e 8 mesi di carcere, oggi chiederà di essere mandato ai domiciliari o in una comunità per il resto della pena. Va bene, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. È il momento in cui, se siete alla guida, dovete tenere le mani ben strette sul volante. Mani sul volante! E appoggiate le cose con cui potreste farvi del male, anche se avete un coltello, insomma, magari state spalmando la marmellata. Riguarda la nostra università, l'università italiana. Gian Antonio Stella ne scrive in prima pagina: 1 su 1000 ce la fa, ma magari nelle nostre università italiane su 13.239 docenti ordinari, ripeto, 13.239 docenti ordinari, sapete quanti di loro hanno meno di 40 anni? 15. 15! Evviva il paese giovane! È vero, uno si deve laureare, fare il dottorato. 15! Sapete quanti di loro hanno meno di 35 anni dei docenti ordinari? Ripeto, su 13.239, sapete quanti ne hanno meno di 35 di anni? Zero! Zero! Eccolo qui, l'età media si è impennata fino a 52 anni e mezzo. 52 anni e mezzo l'età media dei nostri atenei, scrive Stella, tra l'altro in un articolo che continua a pagina 21 e si conclude con uno continua, dunque sarà una serie di puntate dedicate, un'inchiesta dedicata all'università. I docenti ordinari sotto i 40 anni in Italia sono 15 su 13.000. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Impareggiabile Milan, sono Attarus, Goldrake, principe del pianeta Flint. Ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. Grande Goldrake, Goldrake è una delle punte di diamante dei nostri ascoltatori, il mitico Malaspina, Romano Malaspina, grande e grazie ovviamente. Allora, ieri è stato fatto un passo in avanti per l'approvazione della legge elettorale, passo in avanti decisivo, mi verrebbe da dire. Determinanti 50 voti di Forza Italia nel patto del Nazareno che ha tenuto dopo l'incontro Renzi-Berlusconi per approvare l'espositum, cioè il super cangurum. Non pensate che mi sia ammattito, eh? È l'emendamento del senatore Esposito che oggi sarà nostro ospite alle 8.15, dunque ci spiegherà di che si tratta. Praticamente è un emendamento che permette di cassare, cioè eliminare, oltre 35.000 emendamenti alla legge elettorale, quindi sfoltisce di gran lunga il dibattito. Rimangono credo ancora 12.000 emendamenti da discutere, però pare che entro settimana prossima, prima di iniziare a votare per il Quirinale, quindi prima del 29 gennaio, Renzi tenterà di incassare il sì definitivo alla legge elettorale. Il tema politico che è affrontato da tutti i giornali oggi è, alla luce di quello che è successo, sta nascendo una nuova maggioranza? Cioè non l'accordo del patto del Nazareno, ma proprio il partito del Nazareno? Forza Italia è pronta a governare, come scrive il Fatto Quotidiano, con Renzi? Cioè via i dissidenti del PD e fare un nuovo governo di larghe intese? O i diretti interessati smentiscono, come succede in questi casi. Il premier, in un retroscena di Francesco Bei su Repubblica pagina 2, dice: nessun cambio di maggioranza, Forza Italia non entra nel governo, l'accordo con Berlusconi è solo sulle riforme e sul Quirinale, stop. Però certo il Fatto Quotidiano per esempio è certo, in prima pagina titola così: pronto il governo Renzi-Berlusconi dopo la presa del Quirinale. E i dissidenti del PD? Beh, c'è questo numero che circola, 140. 140 sarebbero coloro che stanno con Bersani, scatta la conta nel PD, 140 con Bersani. Questo è il titolo di pagina 6 del Sole 24 Ore a firma Emilia Patta. Tra l'altro Bersani, che come racconta Giovanna Casadio su Repubblica pagina 4, dice: non inventatevi niente, la scissione non esiste, questa è casa mia. Renzi sapeva che sull'Italicum una mediazione del PD era possibile, però non l'ha voluta. 140 tra deputati e senatori è la cifra però di coloro che vengono identificati da tutti i cronisti come vicini a Bersani e anti Renzi. Anche il giornale, guardate qui, Bersani raduna la ditta in 140 con l'ex segretario per la scissione dal PD. Non evoca la scissione Bersani, però dice: rispettateci. E questo è il titolo di pagina 9. Non è piaciuto certamente la definizione di parassiti. Ieri avevo detto molto forte che il senatore Esposito ha affibbiato a coloro che non avrebbero votato il suo emendamento ma rimangono nel partito. Parassiti li ha definiti Esposito. Se viene meno il rispetto è finita, risponde Bersani, come scrive il Corriere. Dare del parassita a gente per bene come Corsini, Gotor, Mucchetti è pericoloso. L'altra metà del ragionamento di Bersani, che presto vedrà Renzi, è però un appello al dialogo. Spetta a Renzi dire se si può ripartire dall'unità del PD. Sentite addirittura Boccia: Renzi usa metodi da ISIS, da Stato Islamico. Beh, insomma, adesso si sa che la politica a volte è anche il teatro delle esagerazioni. Adesso dire metodi da ISIS mi sembra anche alquanto un po' fuori luogo. Comunque, e dall'altra parte invece c'è un Berlusconi che evidentemente gongola, perché sta tornando sempre più al centro della scena politica, cioè colui che decide. E infatti Repubblica, con Carmelo Lo Papa a pagina 6, la mette così: il sogno di Berlusconi è questo, il governo non potrà più fare a meno di noi. Sentite quello che viene attribuito a Berlusconi, per carità sono retroscena. A me questa legge elettorale fa schifo. Così direbbe Berlusconi. Queste riforme fanno schifo. Ma lo capite che corriamo il rischio di ritrovarci un presidente ostile? E a quel punto, addio, io me ne vado all'estero e vi spedisco una bella cartolina. Questo Berlusconi direbbe continuamente ai suoi per spiegare perché sta cercando di tenere appunto ben forte, ben saldo questo patto del Nazareno. Insomma, mi fanno schifo queste riforme, mi fa schifo questa legge elettorale, ma devo concordare un presidente. E un presidente non ostile, e il presidente non ostile e le Quirinarie oggi fanno salire per la stampa Padoan e Del Rio, che salgono di quota, pagina 3 della stampa. Del Rio sale di quota anche per il Messaggero. Del Rio nella rosa con il premier tentato dal blitz al primo voto, ma invece Antonio Martino è il candidato di Berlusconi. Ma alla Zanzara l'hanno chiamato Antonio Martino, ha detto mi sembra uno scherzo da prete, chissà se questo lo fa un po' bruciare. E invece Libero è sicuro e dice ci toccherà l'amaro Giuliano, cioè Giuliano Amato. Tanto, sono tutti totonomi e poi vedremo. Ma su questa situazione politica attuale è straordinario oggi il Massimo Gramellini. Massimo Gramellini sulla stampa, Arturo e il super canguro. Il suo buongiorno è questo: provo a mettermi nei panni di una persona non particolarmente interessata al racconto del potere, cioè chiunque faccia un mestiere diverso dal politico o dal giornalista. Ecco, sembra detto per inciso, sembra quello che vi dico io tutti i giorni, no? Che queste cose interessano solo a loro e un po' a noi giornalisti. Vabbè, comunque, scrive Gramellini: mi metto nei panni di una persona non interessata al racconto del potere. Questa persona, chiamiamola Arturo, accende il computer sul lavoro, se ne ha ancora uno, e in tutti i principali siti di informazione trova caratteri cubitali. Italicum, sì al super canguro. Immagino che Arturo oscillerà tra perplessità e smarrimento. Chi è Italicum? Ed è davvero tanto importante che abbia detto sì al super cangurum? La sera, tornato in famiglia, se ne ha ancora una, compulsa freneticamente i TG e vede occhi torti e volti disfatti che si insultano come al solito, ma con insolita partecipazione emotiva, come se stavolta si trattasse veramente di vita o di morte. Arturo apprende che Italicum è un mostro mutante, infatti ha appena cambiato nome diventando Espositum. Espositum, ripetono voci ansiose dentro lo schermo. Gotor, gridano altre. Con ogni probabilità deve trattarsi di un manga giapponese o di un'esclamazione sacra pronunciata in una lingua della terra di mezzo nota a Tolkien. Arturo è scosso, soprattutto dal sovraffollamento degli scranni parlamentari. Quando si discuteva di terrorismo o disoccupazione erano vuoti, mentre per il super canguro c'è il pienone. Com'è potuto accadere? L'illuminazione gli arriva durante il monologo di un sottosegretario. E se il super canguro fosse il marito della super cazzola? Proprio così, Arturo, e purtroppo han fatto molti figli. Eh sì, eppure anche noi parleremo di legge elettorale alle 8:15, Mentre invece il Sole 24 Ore apre sul quantitative easing. Ci siamo, Mauro! Mauro Meazza, buongiorno. Ci siamo. Ci siamo, è il giorno. Vedo che si sta esercitando a dirlo. Quantitative easing. Piano piano migliori, dai. Che ci siamo oggi, bisogna farlo partire, speriamo bene. Insomma, ci sono grandi attese, spieghiamo tra l'altro in più pagine sul Sole 24 Ore anche l'effetto, c'è una bella grafica. Puoi far vedere la grafica di pagina 3 che spiega questa pagina cosa? Pagina 3 la posso mostrare? Da quella lì secondo me si capisce molto bene, sì, non sì, so sì. Se gli ascoltatori magari quelli un po' più lontani non riescono a vederla. No, aspetta, però la avvicino al microfono. Ecco, avvicinala un pochino che così, scherzi a parte, c'è una grafica che riassume sia il meccanismo di decisione della BCE sia soprattutto che cosa dovrebbe fare. Ma non fare, devi spiegare una grafica che si vede. Non devo. Ah, scusa, no, è inutile. Prendere dall'entusiasmo, hai ragione. È superfluo. Hai ragione. Senti, ti voglio dire anche che spieghiamo tra l'altro in altre pagine del Sole 24 Ore i meccanismi di modifica, di cambio del conto corrente, sai che sono stati rivisti, come va a semplificarsi ulteriormente il cambio del conto corrente. E poi una buona notizia: il 2014 si è chiuso con un aumento nelle richieste di mutui, più 15%. Ne parliamo. Il problema è se vengono concessi sulle pagine. Beh, vabbè, adesso cominciamo a chiederli, cominciamo a un segnale buono. Invece è oramai fantastica, paragonabile forse solo alla vicenda del super kangurum e altri animali mitologici, la vicenda del limo agricola. Allora, sarebbe stato un giorno decisivo, però non si sa ancora se pagare il 26, che per inciso lunedì prossimo, o aspettare il 4 febbraio. Però anche tu avevi detto che era decisivo, non può. Ma cosa vuol dire? Tu sono anni che parli di settimana decisiva, e allora io ho sbagliato giorno decisivo. Comunque non sono in grado di riassumere, non ce la posso fare. Sulle pagine di norme e tributi già ne trovate, se avete passati ci riescono. La sostanza è: aspettate, non pagate, almeno fino al 4 febbraio. E poi, questa è la cosa che conta, cominciate a non pagare, cari italiani, a non pagare. Ci sarebbe la sanzione, ma ci sarebbe lo statuto del contribuente. Lasciate stare, voi cominciate a tenervi i soldi e poi il Sole 24 Ore vi saprà. Oppure chiedete un mutuo, visto che sono aumentate le richieste, oppure cambiate il conto corrente. Vabbè, niente. Perché Alessandro Milan è Alessandro Milan. Oh, sta arrivando Sanremo, Quando è Sanremo? Tra pochissimo. A proposito di Sanremo, c'è una notizia sui giornali che riguarda in qualche modo, sfiora Sanremo, e riguarda Gianna Nannini, che quest'anno dal 10 al 14 febbraio, vedi che subito Libero ci informa, dal 10 al 14 febbraio. Quest'anno Gianna Nannini, mi risulta, si esibirà a Sanremo, ma racconta Libero sotto il titolo, parafrasando una delle sue canzoni più celebri, Bello e imponibile, il fisco chiede a Gianna Nannini 4 milioni di euro. La cantautrice toscana, accusata di evasione, avrebbe utilizzato società all'estero, e per recuperare il credito c'è anche l'ipotesi di congelamento del cachet di Sanremo. Attenzione! In realtà però l'avvocato è difesa da Giulia Bongiorno, che dice che insomma smentisce, non è vero, spiegheremo e proveremo che non c'è stata alcuna evasione, porterò questi atti alla magistratura. Comunque siamo in una fase in cui ci sono accusa e difesa. Comunque ecco qui, il fisco chiede 4 milioni di euro, mettiamo l'elenco dell'ennesimo artista che finisce nelle mani del fisco. Oh, è interessante sui giornali ancora il dibattito che c'è sulla questione delle parole del Papa, sulla questione del figliare come conigli, o meglio non figliate come conigli, cari cristiani. Avere bambini vuol dire futuro, oggi Avvenire con Mimmo Muolo intervista il sostituto della segreteria di Stato della Santa Sede, Monsignor Angelo Becciu, arcivescovo, stretto collaboratore di Papa Bergoglio, che dice ad Avvenire: al vedere i titoli dei giornali, il Santo Padre ha sorriso ed è rimasto sorpreso del fatto che le sue parole semplici non siano state pienamente contestualizzate rispetto a un passo chiarissimo della Umane Vitae. La frase del Papa, dice l'arcivescovo Becciu, va interpretata nel senso che l'atto procreativo nell'uomo non può seguire la logica dell'istinto animalesco, bensì è frutto di un atto responsabile che si radica nell'amore e nella reciproca donazione di sé. Purtroppo, molto spesso, la cultura contemporanea tende a sminuire l'autentica bellezza e l'alto valore dell'amore coniugale, con tutte le negative conseguenze che ne derivano. Dunque, la precisazione di Monsignor Becciu è questo: nelle parole del Papa il richiamo semplicemente a scelte consapevoli, perché avere bambini vuol dire futuro. Ma su questo tema c'è da dire che vi segnalo oggi uno straordinario Aldo Maria Valli, che scrive in prima pagina del Foglio una apologia del coniglio. Sentite qui. Buongiorno, scrive Aldo Maria Valli, sono un coniglio e scusate l'intrusione, ma vorrei dire la mia sulle recenti esternazioni papali che ho ascoltato con le mie lunghe orecchie e non senza stupore. I pregiudizi su noi conigli sono, ahimè, numerosi. Mi spiace che anche il Papa ci sia cascato. Vengo per esempio alla faccenda del figliare. È vero, una nostra cucciolata può variare dai 5 o 6 fino ai 10, 12 coniglietti, un'enormità rispetto alle vostre abitudini attuali, ma dovete considerare le condizioni in cui nasciamo: nudi, ciechi, sordi, completamente indifesi, incapaci di muoversi. I nostri piccoli sono bocconcini perfetti per predatori carnivori, che infatti li considerano ottimi snack. Ecco il motivo dell'alto numero. In ogni caso, che sia di 3 o 30, il numero di figli lo decidiamo noi. Certamente non ce lo facciamo ordinare da qualche religione, sappiamo pensare con la nostra testa, noi. E vogliamo parlare del nostro senso sociale? Voi, sì, proprio voi che ci accusate di irresponsabilità, dovreste prendere esempio dai conigli. In caso di pericolo, quando uno di noi avverte un rumore sospetto, per prima cosa dà l'allarme alla comunità battendo le zampe sul terreno, così che tutti possano mettersi ai ripari. Non mi risulta che gli umani facciano lo stesso. Ora tocco un altro tasto particolarmente dolente. Voi umani, che spesso siete altamente contraddittori, ci usate sia come cibo, sia come animali da compagnia. Credo solo il cavallo, insieme al coniglio, si trovi in questa situazione ambivalente e sotto molti aspetti avvilente. Capirete che per la nostra specie tutto ciò è fonte di sconcerto. Come considerarvi? Come amici ai quali regalare le nostre coccole o come nemici dai quali stare alla larga perché potreste trasformarci da un momento all'altro in ragù per tagliolini? Se cani e gatti, decisamente sopravvalutati, rispondono ai vostri richiami, giocano con voi, vi saltano in braccio e vi seguono, noi non siamo certamente da meno, eppure non accampiamo diritti, non siamo rivendicativi, non mettiamo mai il muso. Fra l'altro, lo sfruttamento dell'immagine dovrebbe avere un limite. A proposito dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sento dire che ci si aspetta da un momento all'altro che un certo Renzi tiri fuori il coniglio dal cilindro. Ma che c'entriamo noi? Lasciateci in pace, o questa volta potremmo arrabbiarci sul serio. Eccola qui l'apologia del coniglio di Aldo Maria Valli sul Foglio. Vabbè, due o tre notizie di cronaca. Questa veramente, io da due giorni che ci penso, la sfrattata di Roma, 83 anni, accusata di aver fatto saltare una casa perché non potete godere di questa casa ladri, ha tre case. In passato aggressiva con tutti, in passato ha spruzzato del profumo a uno che è andato a tagliargli la corrente perché non pagava, a un vigile del fuoco che andava a tagliargli la corrente, non so se un vigile del fuoco, un vigile penso, è andato a tagliargli la corrente, gli ha spruzzato del profumo. Ma chi è questa qua? 83 anni, ha causato un morto, diversi feriti. Ah, la sfrattata di Roma, proprietaria di tre case, eccola qui. La trovate un po' ovunque, sulla Stampa, credo, sulla Stampa. Vabbè, trovate anche il fatto che Ferrara lascerà presto il Foglio come direzione, un filino autoreferenziale siamo come categoria. Su Repubblica dedicano una pagina intera al fatto che Giuliano Ferrara presto lascerà il Foglio con la direzione e la direzione passerà a Claudio Cerasa. Una pagina di Repubblica, siamo un filino autoreferenziali come categoria, Vabbè, ma siamo anche al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, è il secondo giorno consecutivo. Ieri l'abbiamo data al Corriere della Sera sui papà che fanno i selfie in sala parto. Oggi il giornale dedica una pagina su lui in sala parto coi selfie, dannoso inutile. E dai, e su, e basta. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora parliamo un po' di politica oggi. E per carità, cari ascoltatori, se volete cercheremo di spiegarvi anche cosa prevede la legge elettorale, cos'era l'emendamento Gotor, cosa sia l'emendamento Esposito, detto anche Super Kangurum, cioè l'emendamento che di fatto permette di accelerare l'approvazione della legge elettorale. Temo che però queste cose siano anche molto tecniche, e allora la questione politica, che tra l'altro emerge prepotentemente oggi dai giornali e che più mi interessa approfondire con i miei ospiti oggi, è questa. sta per nascere un nuovo governo Renzi-Berlusconi, cioè non il patto del Nazareno, ma proprio un governo vero e proprio, cioè governare, e cioè mandare via i dissidenti del PD che non sono d'accordo e che sono quantificati dai giornali in 140 tra deputati e senatori che vanno con Bersani. E anche da parte di Forza Italia ci saranno alcuni che non sono d'accordo e va bene, ma far nascere proprio una nuova compagine di esecutivo. Oggi il Fatto Quotidiano è il giornale che più si spinge su questa linea, dicendo in prima pagina: pronto il governo Renzi-Berlusconi dopo la presa del Quirinale. Sarà così? Non lo so. Intanto uno dei protagonisti di questi giorni, il senatore Stefano Esposito del PD. Buongiorno e ben ritrovato, senatore. Eccoci. Buongiorno, buongiorno. Così come saluto anche lui, torna spesso tra noi, l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia. Eccoci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, senatore Esposito, comincerei da lei, poi arriviamo al Super Kangurum. Le piace Super Kangurum? Non... Beh, devo dire... Si sono sbizzarriti. Si sono sbizzarriti. Di animali ne tirano tanti fuori. No, le vorrei chiedere questo, però la questione politica è: Bersani pretende rispetto. Rispetto. Lei li ha definiti, quelli che non votano il suo, che non hanno votato il suo emendamento, ma rimangono nel partito, parassiti. Sono davvero dei parassiti per lei? No, guardi, io tra l'altro ieri sono anche intervenuto sul tema, perché sono abituato. Io sono cresciuto e abituato anche alla battaglia politica dura, ma devo dire quel termine di parassiti che io ho utilizzato, e se vuole le do anche la versione originale, e in un altro modo, e naturalmente, sia chiaro, premetto, non è colpa del giornalista, così evitiamo sempre di scaricare sugli altri, è un problema di come mi sono espresso io, evidentemente non era assolutamente mio intendimento rivolgerlo ai colleghi che non... Che non lasciano il partito. Io ho fatto un altro ragionamento, ho fatto anche un nome e un cognome che confermo, poi le risponderò anche alla domanda. Cioè, quale nome? Io ho detto che quando ci sono dirigenti politici importanti, nello specifico parlavo di Civati, che tutti i giorni, passano il loro tempo a dire che questo è un partito di destra, che questo governo è un governo di destra, che fa politiche di destra, che Renzi è come Berlusconi, no? Passano il loro tempo, diciamo, a criticare il luogo, la casa in cui stanno tutti i giorni, rischiano di assomigliare più a dei parassiti politici che a dei dirigenti di partito. Quindi era riferito a Civati. Cioè, nel senso che se tu stai dentro una casa e ci stai semplicemente per parlarne male, perché questo ti garantisce la possibilità di avere visibilità, rischi di apparire più un parassita politico. Questo era il mio ragionamento. Quindi lei rispetta comunque chi non ha votato? Rispetto, poi politica, sul piano politico dico che la legge elettorale non può essere una questione di coscienza. E quindi un partito come il PD, che ha fatto del cambiamento della legge elettorale uno dei punti qualificanti, si discute, ci si litiga, si provano a cambiare gli equilibri, si provano a cambiare le norme, le proposte del partito, però poi ad un certo punto, quando si arriva alla fine, ci si adegua. Se non ti adegui, e io in questo lo dico, lo ribadisco anche questa mattina, se io mi trovassi nella condizione dei miei colleghi e martedì o mercoledì prossimo, quando ci sarà il voto finale sulla legge elettorale, non è il problema del mio emendamento, voglio che sia chiaro, ma il voto finale sulla legge elettorale, decidessi di non votarla, io ne trarrei le conseguenze, perché non si sa... Lei si dimetterebbe se uno non... Però il suo emendamento viene considerato come fondante per avere tolto la discussione. Ce lo vuole spiegare in due parole? Cioè, il suo emendamento, io ho capito così, è un emendamento che permette di cassare, cioè di eliminare 35.000 rotti emendamenti. Insomma, velocizza l'approvazione. Potrebbe essere accusato qualcuno di dire toglie la democrazia del dibattito parlamentare, no? Guardi, la ringrazio, perché se mi dà un paio di minuti le spiego veloce, un minuto le spiego. Il mio emendamento non è nient'altro che una specie di preliminare a tutto quello che viene presentato, perché io ho semplicemente messo in fila le norme nei commi, no? della legge. Ma il punto dove sta? Siccome io mi sento accusare di aver eliminato la democrazia, mi permetta, lei è attento osservatore. Si è parlato molto degli emendamenti Gotor, dico bene? Sì, esatto. Della minoranza del Partito Democratico, che avevano presentato, primo firmatario Gotor, due emendamenti su due temi delicati, a cominciare dai 100 capilista bloccati, e che naturalmente se fossero passati avrebbero cambiato quello che era il patto del Nazareno. Dico bene? Sì. Le risulta che il mio emendamento abbia impedito ai due emendamenti Gottor di essere discussi? No, no, infatti sono stati bocciati. Ecco, quindi, stati discussi, primo punto. Secondo punto, purtroppo io mi rendo conto che i nostri gli ascoltatori, ma qualche giornalista potrebbe farlo se avesse voglia, io mi sono andato a vedere ieri, ho perso un po' di tempo, a prendermi i tomi dei 35.600 emendamenti cassati dal mio emendamento, sì, e per scoprire che cosa? Che il 95% di quegli emendamenti sono punti, virgole, congiunzioni, aggettivi cambiati per fare ostruzionismo parlamentare. Le posso dire che se avevo qualche dubbio, no? Se qualche piccola remora, dopo aver fatto questo lavoro tutto per conto mio, perché tanto no? Si è tolto il dubbio di aver fatto la cosa giusta, dubbio, dice, tutto sommato, dice, almeno ho velocizzato un po' il dibattito, ho sveltito un po' la procedura, ma senza togliere a nessuno il diritto di poter fare la battaglia. No, va bene, ma su questo guarda, ci torneremo, però vorrei coinvolgere l'onorevole Bianconi sul punto, secondo me dirimente, su cui si discute da tempo. Lei è uno dei più critici a dire da tempo Berlusconi non azzecca più una, vista dal suo punto di vista, quindi di Forza Italia, c'è il partito di Renzi ormai al potere, e allora ci sarà anche il governo del Nazareno? Io penso che il governo sia una fase molto successiva, mentre c'è una maggioranza del Nazareno, cioè, che dentro Forza Italia c'è chi ha già andato dal salto per il giuramento e per farsi il vestito per andare a fare il ministro, di questo io sono convintissimo. Addirittura? Perché ci sono, sì, è una battuta. Mi passerà. Allora è abbastanza veloce la cosa. Se già... Ma oggi la velocizzazione dei processi politici è abbastanza sotto gli occhi di tutti, ma non penso però che nell'immediato ci sia un governo Renzi Berlusconi. Penso invece che c'è già una maggioranza Renzi Berlusconi. Guardi, non lo dico, io lo dico da tempo, ma oggi se ne sono accorti sempre con il consueto ritardo anche i giornaloni, perché se lei legge il Corriere della Sera stamani. Eh sì, infatti. Se ne sono accorti tutti. Io sono in un partito che nasce per opporsi al centro-sinistra, mi ritrovo in un partito che sostiene un governo che è guidato dal segretario del Partito Democratico. Ma i tempi quali sarebbero? Cioè, mi faccia capire, se qualcuno di Forza Italia ha già il vestito da sarto. Sì, ma perché loro si illudono e purtroppo è così, non vivono senza ministeri. Ma a chi pensa? Io non sono come Esposito, non faccio mai nomi. Però questo è ovvio, insomma, anche fra i banchi si vede un po' su questo, però che il fatto politico sia molto grave e che ci sia in discussione non la nostra permanenza in un partito di centrodestra, ma la permanenza di chi fa questo in un partito di centrodestra, come io tengo a precisare, i dissidenti non siamo noi, i dissidenti sono quelli che fanno un partito con l'avversario politico. Quindi lei si sente coerente, i dissidenti io sono mi sento altri. Coerente al programma e alle promesse. Però perché non, se non sente, cioè il discorso che Esposito fa per Civati o per altri del PD, lei potrebbe farlo su se stesso, se non si sente se più parte detto io, perché no, non se ne no, vale no, no, no, perché il discorso è molto diverso. Se io e altri avessimo detto a un partito di centrodestra andiamo a fare il governo con il centrosinistra e loro mi avessero detto di no, io potevo andare via. Ma se io sono in un partito di centrodestra che ha preso i voti per fare opposizione al centro-sinistra e c'è anche la maggioranza in questo partito che decide di tradire il mandato elettorale, sono loro che se lo devono fondare un altro partito. Se devono andare... Sì, però guardi che sono loro, sono mi sa di più di voi. E sono di più, e che vuol dire? Perché la ragione e il torto non sta mica sul No, no, no, non ne faccio una questione di ragione e torto. Certo, però che sono, cioè, certo che sono di più, anche perché fra noi non è che la sera ce ne siano molti che mangiano bistecche di leone, sono tutti, molti sono vegani, poco coraggiosi, traduco per gli ascoltatori, sì, sono sì, poco coraggiosi. Non è che il coraggio sia la virtù maggiore all'interno del nostro perché gruppo. Si direbbe a Milano la cadrega, lei che è di Arezzo sa cos'è la cadrega, cadrega, la sedia, cioè è più importante. La sedia c'è questa dedizione totale, verticale, non tanto come noi a un progetto di centrodestra che può essere incarnato nominato da Tizio, da Caio, da Berlusconi meglio che da Fini, da Bianconi meglio che da Milan, e loro hanno la decisione a capo, e la decisione a capo è funzionale a presenza. Allora, però, su questo emendamento, intanto Esposito, poi dopo la pubblicità approfondiremo il fatto anche con lei se ci sarà un governo Renzi-Berlusconi. Per Bianconi qualcuno in Forza Italia ha già preparato il vestito buono per giurare da ministro. Ce l'ha lì, come ce l'ha nell'armadio. Ma Bianconi sono più vestiti da tailleur oppure più gessati? Un po' e un po'. Un po' tailleur e un po' gessati. Un po'. Si sa, le quote rosa, si sa. Allora, Esposito, c'è un giallo. Là hanno qualcuno, e Calderoli su tutti, ma non solo, dice che questo emendamento non l'ha scritto lei. Senta Calderoli, cosa dice? Dice il senatore Esposito, un peones ha fregato Calderoli. Adesso sono onorato di essere preso come punto di paragone, però siccome conosco la calligrafia di chi scrive le leggi, a parte la premessa, del resto io so chi l'ha scritta. Non ce la farebbe mai. Verdini non ce la farebbe. Boschi? Direi che siamo sullo stesso livello. Insomma, Esposito, per Calderoli questa legge, la legge elettorale, è una questione tecnica molto importante. Lei non è in grado di scriverla perché è materia per tecnici. Chi l'ha scritto questo emendamento? L'ha scritto lei questo emendamento? Guardi, con Calderoli naturalmente ci siamo beccati in questi giorni, perché lui ha particolarmente patito il fatto che il mio emendamento abbia fatto saltare quello che lui aveva in mente, ma ci sta naturalmente. Non è questo il punto. Guardi, io l'ho già detto, ripetuto ieri, io naturalmente non posso far altro che confermare di non aver scritto nulla di rivoluzionario, e il fatto che Calderoli parli dell'impossibilità di scrivere da parte mia dimostra semplicemente quel dato tutto italiano, per cui se una persona sconosciuta fa una cosa intelligente, evidentemente il pupazzo di qualcun altro. Vabbè, comunque lei conferma, l'ha scritto lei, cioè le dice, l'ho scritto. Ma le dico di più, guardi, mi permetta, io non ho inventato niente, ho semplicemente copiato. Da chi? Copiato. Da cosa? Copiato. Io ho preso quello che era il testo degli emendamenti firmati dai capigruppo, chiaro? Sì. Che li hanno diviso, il mio emendamento è fatto da un articolo e dei commi, perché vanno dalla A alla I, chiaro? Comma A, comma B, comma, perfetto. Il capigruppo di maggioranza più Zanda, il capogruppo di Forza Italia, hanno fatto quattro emendamenti dividendo questi commi. Io sa che cosa ho fatto? Li ho rimessi semplicemente insieme. Ah, quindi ha preso quindi io non ho inventato nulla. Quindi in questo dice copiato. Non l'ha scritto ex novo, ma ha copiato. Ho copiato, quindi e ho reimpacchettato. Ah, facciamo. E ho reimpacchettato. Naturalmente il fatto di aver messo insieme ciò che altri avevano diviso per il regolamento del Senato, che evidentemente conosco abbastanza, non come il maestro presidente Calderoli, va bene, ha prodotto questo effetto. Io capisco che Calderoli ne possa soffrire, però è stato scatto. Non rivendico di aver fatto, diciamo, il legislatore inventando. Ha copiato da chi? Da Zanda, Romani, Zeller, Zellert, Susta, insomma tutti quelli i capigruppi di maggioranza, tra l'altro emendamenti che oggi, questa mattina, sono, diciamo, in discussione al Senato. Quindi, e che senso ha discuterli adesso se sono tutti riassunti? Infatti naturalmente, siccome dentro quegli emendamenti, che sono poi anche più articolati dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto legislativo, ci sono dei punti che io non ho riportato, io ho fatto solo lo schema, come si dice, ho messo in fila lo schema. Una serie di cose. No, ma è chiaro, è tutto chiaro. Allora, un attimo di pubblicità, poi entriamo con il senatore Esposito, l'onorevole Bianconi. Se volete anche le vostre telefonate, cari ascoltatori, 800 24 00 24, la domanda è questa: secondo voi arriverà un governo Renzi-Berlusconi, o che succede, che sta succedendo a livello politico? Ditecelo. 24 mattino. Siamo qui a parlare di quello che sta succedendo a livello politico col senatore Stefano Esposito del PD e l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia. Bianconi, al quale chiedo, c'è da eleggere un presidente della Repubblica settimana prossima. Lei ha detto che candidamente Renzi e Berlusconi si sono messi d'accordo anche già sul nome, il patto del Nazareno. Io penso di sì. Sì. Io faccio un ragionamento. Se l'è fatto politico. Anche sfuggire ieri in un'intervista. No, ma che sfuggire? Come io no? Si è Giuliano sfuggire. Amato. Lei ha fatto un lapsus, una gaffa e le è venuto fuori il nome. Dai. No. No, sì. Perché mi sono fatto sfuggire, l'ho detto. L'ha detto. Voglio dire, ci sono mille modi per dire le cose che si vogliono dire. Cioè, per lei, Renzi e Berlusconi si sono messi d'accordo e voteranno Giuliano Amato presidente. È il più probabile perché tiene insieme il sotto il sopra e quello che c'è dalle parti. Insomma, voglio dire, è un uomo che sa calibrare un mondo come quello che intendono rappresentare. Renzi e Berlusconi ci sta, se poi ce la fanno o no è un altro conto, perché Renzi è un protagonista e sa bene che Amato poi tutte le mosse che dovrebbe fare lui forse non gli dovrebbe fare. Ma lei sa che oggi Repubblica scrive che Berlusconi, il parere di Berlusconi in realtà è questo: questa legge elettorale mi fa schifo, queste riforme mi fanno schifo, sì, ma se io non se ho un presidente ostile io me ne vado all'estero e vi mando le cartoline. Sì, ciao. Sandi che lo dice. Guardate che Berlusconi è un uomo straordinario, l'ho sempre detto, è straordinario. Berlusconi ha iniziato questo colloquio con questa pseudo riunione alla quale io ho fatto bene a non partecipare, dicendo a Capezzone, uno che sta insieme a me, stiamo insieme, e nel dire di no a questo modo di fare, ha detto: se non ti sta bene andatevene. Dopodiché, vedete, vede che è un po' quello che gli ho detto io. Dopodiché, siccome le argomentazioni di quelli che non vanno bene gli apparivano abbastanza conclusive, ha terminato dicendo: guardate, avete ragione, queste riforme mi fanno schifo, ma il Presidente della Repubblica è quello di cui io ho bisogno. Cioè, parliamoci chiaro, Berlusconi lei sta dicendo... si fa concavo e converso al bisogno, capito? Ma, lei ha anticipato la mia domanda, cioè Berlusconi fa tutto per un suo interesse, vero? Per un suo schema. Il suo schema è questo, il suo schema è questo, e quindi prende l'interlocutore per il verso migliore, per ottenere il meno disagio possibile. Una sua tecnica. Comunicativa e anche di captatio benevolenze. Vorrei chiedere non ho ancora chiesto a Esposito se secondo lei Esposito ci sarà il governo Renzi Berlusconi. Mi pare di no. Fantascienza. Va bene, fatemi sentire due ascoltatori. Manuel ci chiama da Cosenza. Manuel, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi fa specie, alquanto specie, che il senatore Esposito si faccia, insomma, sia contento di aver fatto una furbata del genere su un argomento così importante. Non crede che sia una furbata, lui dice, anzi, ho eliminato emendamenti che non servivano a nulla. In Italia fare quello che ha fatto lui, insomma, bisogna andare fieri. No, quello che volevo chiedere ad Esposito, se ha dei figli e se un giorno, insomma, cosa racconterà di ciò che ha fatto, se ne sarà fiero, se è contento di ciò che ha fatto dal punto di vista umano, non dal punto di vista tecnico. Manuel, la domanda è giusta. Di ciò che sta lasciando ai suoi figli. Esposito. Di che tipo di democrazia sta lasciando ai suoi Esposito, figli. Esposito, cosa racconterà ai suoi figli di quello che ha fatto? Intanto avrò l'opportunità di fargli leggere non solo di questa giornata, ma questa giornata è particolarmente importante, tutti i resoconti stenografici è già una cosa importante. Poi adesso, per essere molto seri, non credo che siamo di fronte ad una furbata. L'ascoltatore pone un problema che a cui ho cercato già di rispondere prima. Vede, noi abbiamo sempre detto che le istituzioni devono essere produttive e possibilmente rapide, garantendo a tutti la possibilità di discutere. Io capisco che la propaganda, ne ho sentito in aula in questi giorni tanta, tende a dire che cancellare 35.000 emendamenti significa cancellare la democrazia. Sì. Io le ho cercato di dimostrare, ma naturalmente non posso far altro che... Che ha cancellato degli emendamenti inutili. Degli emendamenti inutili, e il merito, e lo dico all'ascoltatore, se lei va a discutere con un avvocato professionista, credo che abbia interesse che quell'avvocato professionista le parli delle cose concrete, non che lo porti a spasso sul diritto. Esattamente, noi stiamo discutendo dei temi concreti che dividono anche che possono avere opinioni diverse, con un piccolo vantaggio, cioè quello di non perdere tempo a dover far finta di star discutendo. Sì. Ecco, questo secondo me produce un effetto positivo per l'istituzione. Io penso che non siamo di fronte a nessuna furbata e sono particolarmente... Ah, ma c'è, è contento di aver fatto quello che ha fatto, perché ha studiato gli emendamenti cassati. Una prospettiva. Poi naturalmente la storia dirà se stiamo facendo bene o male, però avendo tre figli penso di star facendo bene per loro. Va bene, sentirei Marco da Modena. Marco, buongiorno. Buongiorno Milan, grazie per questo spazio. Dica. Per avermi richiamato. Ma io semplicemente ho due curiosità per i suoi ospiti. La prima, Bianconi, io ero un elettore di Forza Italia, lei dovrebbe fare come me, semplicemente ho smesso di andare a votare, ma ho smesso di votare Forza Italia, perché non mandava più bene tutta la linea politica. Quindi le chiedo, lo impara adesso lei che non c'è democrazia dentro Forza Italia? Cioè, non lo so, l'ho imparato in questi giorni. Bianconi, per la verità Bianconi da un po' di tempo. Poi la seconda? La seconda cosa, per Esposito, poi chiudo. Esposito, veda, secondo me, questo è il mio punto di vista, secondo me c'è una pregiudiziale di fondo, cioè qui facendo le riforme con Berlusconi c'è una parte, non so se è la più estrema della sinistra nel suo partito, che non le accetta, perché mi spieghi un attimo cosa c'è di non arrivabile così, cosa chiedono questi 140 della legge elettorale? Sono così inconciliabili le posizioni? Va bene, è chiara la sua domanda. Bianconi, intanto, si accorge oggi. Non faccio una questione di democrazia. Di democrazia ce n'è poca in tutti i partiti, quindi non è che su quello mi lamento io. Insomma, Renzi li sta massacrando nel suo, Casini nel suo ha fatto quello che ha voluto e Berlusconi anche nel suo ha fatto quello che ha voluto. Non discuto di democrazia, discuto di linea politica io. Io sono per il centrodestra e quando c'è il centrodestra, i valori del centrodestra, dell'elettorato del centrodestra, prima avevamo 13 milioni di voti, ora non ne abbiamo neanche due, è un problema, esisterà. L'ascoltatore è un problema di linea politica. Sì, però l'ascoltatore ha vissuto il suo stesso problema politico e dice io non ho votato più, basta, forse va bene, lui è un elettore, io sono un deputato e quindi ho il dovere di rispettare il mio mandato verso gli elettori e fare di tutto perché il centrodestra faccia il centrodestra. Se poi non ce la farò, pazienza, non è che ho ambizione di rielezione, io so benissimo che facendo questo io ho chiuso per sempre. Venga a fare il direttore sportivo al Milan, che lei si occupa di calcio da anni, si è occupato di calcio, c'è un problemuccio al Milan. Ci sono tre o quattro problemi. Il primo è l'inconciliabilità fra i dirigenti Gagliani c'è questo dissidio in società, i giocatori lo vedono. Il secondo, c'è un allenatore troppo giovane, ballottato lì all'interno. Terzo, non c'è la qualità da Vabbè, siamo arrivati al calcio. Esposito, però, per concludere, questi 140, ma volevano qualcosa? Volevano la luna per cui bisognava andare a chiedere i voti a Forza Italia o non si poteva fare con loro? Guardi, io però credo che intanto ci vada una premessa. Noi non abbiamo mai detto che avremmo approvato la legge elettorale da soli, senza coinvolgere gli altri, quindi questa cosa di andare a chiedere i voti io continuo a non comprenderla, cioè il percorso è cominciato esattamente con lo spirito di votare una legge, di far votare una legge al Parlamento nella sua parte maggioritaria, quindi con Forza Italia il rapporto è stato fin dall'inizio. Poi i 140, io adesso usiamo questa, non vorrei diventasse il tormento dei 101, lo dico per loro naturalmente, i 140, o meglio gli emendamenti Gotor, si concentravano su un punto in particolare, cioè quello di eliminare i 100 capolista bloccati. Io che sono figlio del Porcellum e che ho giurato a me stesso e agli elettori che non sarei uscito dal Parlamento mettendo nelle condizioni i prossimi eletti o almeno una parte superiore a quella che oggi c'è, cioè nessuno, di poter essere eletti con le preferenze, ritengo questo un punto di mediazione, perché guardi, la legge elettorale perfetta, cioè quella che avrei voluto io, mica è questa. Se qualcuno mi chiedesse è la legge perfetta, no, ma in politica e quando fai le riforme si fanno le mediazioni. Onestamente non vedo come si possa dire che questa è una legge peggiore del Porcellum. E poi mi permetta una piccola battuta polemica, alcuni dei miei colleghi, a cominciare da Gotor, che hanno impugnato la spada delle preferenze, io sì, l'ho impugnata tanti anni fa, la scorsa legislatura, quando io presentavo insieme dei colleghi alla Camera disegni di legge per inserire le preferenze, ci davano delle botte in testa dicendo che la preferenza era il male assoluto. Allora si tenga conto anche un po' della strumentalità quindi politica. Quindi lei ha visto un po' di strumentalizzazione di alcune, ecco, battaglie politiche. Perché poi la coerenza in politica è un elemento che dovrebbe comunque rimanere sempre sullo sfondo, altrimenti, come dire, si fa il salto in banco. Mi devo fermare qui però, ringraziando il senatore Stefano Esposito, PD, e Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia al traffico. 24 mattino. Alle 8:51 minuti vorrei sentire anche Maurizio da Monza sul tema politico che abbiamo affrontato. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Che dice lei? Sono d'accordo con il senatore del PD, ha fatto bene a fare quello che ha fatto, sono dell'idea che è uno stipendio messo bene. E d'altronde Calderoli deve pensare che se vai a fare una battuta di caccia e in quel momento hai voglia di bere una tazza di vinello e dai il fucile al tuo amico, se passa il pagiano gli devi sparare, non devi lasciarlo andare via perché non hai in mano il fucile. Quindi bene ha fatto. Ha fatto bene Esposito, cioè e gli altri che dovrebbero fare? Cacciarli? Andarsene? No, gli altri Civati, io sono Brianzolo e Civati arriva dalla mia terra, è sempre stata una piaga. Io sono un ex democristiano giovane di Ciccio, 53 anni, e sto lì, guarda, e vedo che questi giovani qui mi deludono. Ieri ero con un inglese e mi ha detto, ieri a pranzo, parlava benino l'italiano, ha detto vorrei parlare il fiore come Renzi ha parlato in inglese oggi, perché ha detto è la lingua più bella del mondo, ma faceva riferimento al fiorentino. Sì. Quindi Renzi ci ha dato anche questa possibilità di avere, perlomeno personalmente, un punto di orgoglio nei confronti dell'inglese. Che parla inglese, Beh, insomma, qualcuno dice che lo parla un po' così, però si sta applicando, Maurizio. La ringrazio, ma il suo intervento ci permette, visto che ci ha aperto gli orizzonti e i confini, ci permette di arrivare al nostro momento finale. Ciao Italia! Il momento di Ciao Italia, il racconto di molti italiani non solo, che ci ascoltano dall'estero, ed è davvero uno spaccato straordinario da quando abbiamo iniziato, abbiamo scoperto ascoltatori disseminati in tutto il mondo. Oggi abbiamo una coppia, ebbene sì, allora per gentilezza, educazione, comincio dalla donna, comincio da Silvia. Silvia, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti gli italiani. Dove sei? In questo momento sono in ufficio a Malmo, in Svezia. A Malmo, in Svezia. E saluto allora anche Marco. Marco, buongiorno Marco. Ciao Alessandro. Tu dove Ciao. Sei? Pure. Io sono in ufficio a Copenaghen, in Danimarca. Ah, fantastico, giusto. Perché però Silvia e Marco sono una coppia, possiamo, cioè, siete in ufficio, tranquilli, non è che dobbiamo creare problemi. Silvia, tu sei in ufficio, e Marco, tu sei in ufficio. Vivete a Malmo, in Svezia. Sì, esattamente, sì. Viviamo qui. E come mai? Da un anno e mezzo viviamo qui, Marco ha ricevuto un'offerta di lavoro e abbiamo deciso di trasferirci qui. Un salto un po' nel buio, ma siamo molto felici di averlo fatto. Ah, che bella questa cosa. Però Marco, tu lavori a Copenaghen, ma perché, scusa l'ignoranza, non è distante Malmo da Copenaghen, visto che sono due nazioni diverse? Malmo e Copenaghen sono collegate da un ponte. Ah, fantastico. È bello colmare l'ignoranza, è bello colmare l'ignoranza così. Sono due nazioni diverse, ma sono... Quindi quanto ci metti da Malmo a Copenaghen? 30 minuti di treno. Ah, ma è fantastica questa cosa. Sì, quindi sì, tutti i giorni fai il pendolare Malmo-Copenaghen, Copenaghen-Malmo. Sì, guarda, io ho passato il primo anno andando in ufficio a piedi a Malmo ed è stato bellissimo. Adesso sono passato a fare il pendolare, però a differenza dell'Italia qui abbiamo sia il mattino sia il pomeriggio un treno ogni 10 minuti che collega due nazioni. Che fa ritardi? Fa ritardi ogni tanto quando c'è qualche condizione meteo particolare, può esserci ritardo, sì. Però per il momento io esco dall'ufficio, cambio amministrazione, salgo sul treno, aspetto non più di 5 minuti. E sei a Malmo, sì. Nel giro di mezz'ora. Silvia, che cosa c'è di... perché hai detto siamo contentissimi, cosa avete trovato di straordinario trasferendovi in Svezia? Allora, nessuno ci ha regalato nulla in Svezia, non è una cultura facile, non è una società che ti apre soprattutto le porte all'inizio, sei italiano, hanno un po' di paura verso la nostra cultura, però qui abbiamo trovato delle opportunità che di sicuro l'Italia non poteva offrirci, soprattutto nei miei confronti. Mm-hmm. Una donna che vuole fare la designer e la web developer non esiste. In Italia è molto molto difficile trovare donne che hanno questa diciamo E invece lì hai trovato lavoro? Ti sei messa sul mercato? Sì, io mi sono messa sul mercato, sono arrivata qui che non conoscevo praticamente l'inglese, dunque ho cominciato studiando l'inglese per potermi diciamo esprimere, e nello stesso momento ho deciso di studiare programmazione e web design. Hai trovato, hai visto, si può, cioè c'è molto dinamismo, si può trovare. Diteci come ci ascoltate, Silvia, come ci ascoltate lì da Malmo? Noi ti ascoltiamo tramite il sito web, magari alla sera quando abbiamo del tempo libero, perché durante la giornata qui si ovviamente lavora. Esatto. Mi sembra giusto, parecchio. Si lavora. E allora io voglio mandare un abbraccio a Silvia, Marco, a Malmo e anche a Copenaghen, perché no? E continuate a scriverci, cari ascoltatori che siete all'estero. 24 mattino è radio24.it e noi vi chiameremo in onda. Intanto i saluti, i ringraziamenti a Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli, che sono in redazione insieme al nostro alpino Peter Bescapè, l'alpino milanista, ma anche se mi metto il gol di Dennis, va bene.